Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Oggi, per il consueto giro di shopping di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, andiamo al cinema e parliamo di product placement. Lo facciamo in occasione dell'uscita di Sex and the City 2, un film che ci svela i segreti di questa strategia di marketing. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione continuiamo a parlare di pubblicità con le formule che strizzano l'occhio alla crisi, mentre per il focus sui trend, riflettori puntati sui super prodotti, quando l'innovazione fa tendenza. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana. Italiani poveri ma belli. Anche in tempo di crisi non rinunciano ai cosmetici. Lo rivela il Beauty Report 2010 presentato da Unipro, l'associazione italiana delle imprese cosmetiche, da cui emerge che 7 italiani su 10 considerano i prodotti di bellezza una spesa irrinunciabile, seconda solo ad alimentari e farmaci. Inizia Gucci, finisce Armani. È un calendario blindato che non teme attacchi e defezioni, quello messo a punto per la prossima settimana milanese della moda femminile, dal 22 al 28 settembre prossimi. Crolla nel 2010 il consumo di pane, che a fronte di un aumento medio di prezzo del 2% registra una riduzione del 4% negli acquisti familiari. Secondo Coldiretti, il prezzo medio del pane tra Napoli e Venezia raddoppia. L'estate 2010 segnerà invece i consumi record di gelato. Gli italiani spenderanno più di 2 miliardi di euro. Nelle oltre 36.000 gelaterie sparse per il paese, tramontano definitivamente i gusti artificiali a favore di quelli artigianali. Tra le novità, i gusti bergamotto e vino recioto. In Inghilterra è già un must. Adesso arriva anche da noi. È la Green Gym, ginnastica all'aperto con gli attrezzi del contadino, zappa, rastrello e vanga. Ci si allena in parchi e zone predisposte potando, zappando e sollevando secchi d'acqua. E lo stretching si fa con i rami degli alberi. Arrivano anche in Italia le maxi confezioni di latte fresco in stile americano. Prima a lanciarle la centrale del latte di Torino, che con la campagna Il Gigante Buono promuove per la prima volta il formato da 1,5 litri. La borsa della spesa. Pubblicità e cinema, voce in evidenza nel marketing. Il cosiddetto product placement è il posizionamento di prodotti e marchi all'interno delle scene di un film. Non si tratta di pubblicità occulta, segue regole ben precise che vengono messe nero su bianco negli accordi tra le case di produzione cinematografiche e televisive e le aziende. Ci sono film che più di altri vengono contesi dai marchi per questo tipo di operazioni. Uno di questi è appena uscito nelle sale. Si tratta della seconda puntata della versione cinematografica di Sex and the City. Sono passati 2 anni. 12 anniversari. Tu e io, solo noi due. 10 milioni di euro. A tanto ammonta, secondo il sito Daily Beast, il valore di abiti, scarpe, borse e bigiotteria utilizzati per le riprese di Sex and the City 2. Ma una cosa è certa, le griff coinvolte, bene in vista nel film, guadagneranno molto di più. Dobbiamo lavorare sullo scintillio. Scintilla. Del resto, senza la serie TV che ha dato origine alla saga, molte meno donne di adesso conoscerebbero i sandali di Jimmy Choo o di Manolo Blahnik. Stavolta i brand sono 180, inclusi gli Emirati Arabi Uniti, sponsor del film e meta della vacanza delle 4 amiche. Ci serve un po' di glamour. Una settimana ad Abu Dhabi, tutto spesato per tutte e 4. Fuori città? Esattamente. Sento il richiamo della decadenza. Direi che non siamo più nel Kansas. Mi sta venendo una vampata. Sei su un cammello in mezzo al deserto arabico. Se non hai una vampata, sei morta. Peccato che, causa immoralità del quartetto, le scene, nella presunta Abu Dhabi, siano state girate in Marocco. Tra i rimpiazzi ha fatto notizia la scelta del computer, non più il Mac, protagonista di tutte le puntate della serie, ma un portatile HP. Per saperne di più abbiamo in collegamento la nostra esperta di cinema, Marta Cagnola. Ciao Marta. Beh, esperta di cinema, ciao Maria Luisa, ma anche esperta di bei vestiti e belle scarpe, perché di quello soprattutto parliamo, diciamolo. Ecco, allora Marta, lo abbiamo sentito nella scheda, un film che equivale quasi a farsi una passeggiata tra le vetrine delle vie dello shopping, è così? È così, sicuramente non stiamo parlando di un capolavoro della storia del cinema, ma stiamo parlando della fotografia di tutte le tendenze attuali in fatto di moda, di lusso, tutto quello che vorremmo e che forse dovremmo sognare, dalle automobili ai gioielli, appunto, ai vestiti, alle scarpe, addirittura ai viaggi, perché loro si spostano negli Emirati Arabi, si spostano ad Abu Dhabi per scoprire questa nuova frontiera del turismo, una frontiera un po' controversa, e anche nel film questo emerge. Sono cambiate nello stile Carrie, Samantha e le altre? Dobbiamo dire subito che sono passati 2 anni. Sono passati 2 anni dall'ultimo film, ma sono passati 2 anni anche nella finzione. E la sensazione è che loro vogliano farci capire che sono stati i 2 anni peggiori della crisi, ma che ci sia voglia di superarla. Lo dice la stessa Samantha, sono stati 2 anni bruttissimi, adesso festeggiamo. E come festeggiamo? Festeggiamo scintillando, con lo scintillio. Quindi tantissimi brillanti, anzi cristalli, visto che i cristalli più famosi sono il main sponsor del film di Sex and the City 2, tantissimi tessuti molto ricchi, molto scintillanti, tante idee che arrivano dagli anni 80, un ritorno agli anni 80 forse, perché proprio un ritorno alla positività, alla voglia di sognare, alla voglia appunto di scintillare. Ma tutto questo product placement in qualche modo stona, Marta? È troppo ostentato o in questo tipo di film ci può stare? Beh, sappiamo che il segreto del product placement è quello di essere invisibile perché naturale. Come nella vita quotidiana non copriamo le etichette dell'acqua minerale o del caffè che mettiamo nella macchinetta, così non accade nei film, ma deve essere appunto naturale. E cosa c'è di più naturale del product placement, del citare un prodotto in Sex and the City? La marca è esibita in tutti gli anni di serie televisiva, così è anche al cinema. Fa forse più impressione la marca quasi nascosta, il marchio appena accennato, la scritta sul sacchetto, la scritta sulle boccette, sui ripiani del bagno. Ecco, il product placement sotterraneo fa stona di più del product placement sfacciato, perché questo è Sex and the City e credo sia la vetrina migliore per il product placement al cinema. Grazie Marta Cagnola per essere stata con noi. A presto. Ora chiudiamo la pagina dedicata a Sex and the City 2 e parliamo di Credit Crunch, la stretta sul credito generata dalla crisi che è diventata protagonista di molte campagne pubblicitarie. Ce ne parla il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Gli ascoltatori avranno letto sui giornali e ascoltato in televisione il termine inglese crunch. È balzato agli onori della cronaca subito dopo la disfatta delle borse e delle banche, soprattutto americane, della fine del 2008. È un termine, lasciatecelo dire, terribile. I creativi invece hanno cercato di cavalcarlo facendolo diventare qualcosa di positivo, trasformandolo in oggetti di consumo. Nella moda, ad esempio, lo racconta Walter Mariotti nel suo Un mondo alla rovescia, edito dal Sole 24 Ore, è diventato Credit Crunch Fashion e proprio nelle calzature è stato lanciato il Credit Crunch Heel, il tacco del Credit Crunch. La catena di department store inglese Selfridges ha fiutato l'affare e ha lanciato la propria linea di Credit Crunch, che consiste in sacchetti trasparenti di caramelle toffee ricoperte di cioccolata, tanto per consolarsi e essere ironici. Il prezzo è all'altezza dei tempi, 3,99 sterline. La catena britannica di superstore Tesco ha lanciato il suo contributo, riversandolo però nella comunicazione delle sue carte telefoniche e ha invaso giornali e affissioni con un altrettanto British avviso. Tesco Mobile, we won't crunch your credit. La catena americana di abiti da sposa, Henry Kay, ha fatto di più, ha lanciato la linea Credit Crunch Wedding. Con soli $89 la sposa può comprare abito, velo e bouquet in un sol colpo. Mossa da manuale, soprattutto perché gioca con la parola principe crunch, ma anche con la voglia di low cost e prezzi bassi che impazza in America, ma anche in Italia. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno a tutti. Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze. Oggi parliamo di superprodotti, prodotti dai superpoteri, potremmo dire. Il richiamo nella definizione è proprio quello ai supereroi. Sono tutti quei prodotti potenziati che hanno a che fare, cioè, con l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione, una tendenza che non interessa più solo il settore high tech, ma arriva fino ai cosmetici e al cibo. Patrizia. Siamo abituati ad usare la parola smart associata ai cellulari e parlare di smartphone. In realtà sono molti e insospettabilmente intorno a noi vicini gli oggetti smart, cioè quelli intelligenti, cioè potenziati tecnologicamente, quindi dotati a livello tecnico di chip con microprocessori che li rendono appunto tali. E infatti abbiamo nelle nostre case le lavatrici che decidono da sole il programma di lavaggio in base allo sporco e al tipo di tessuto, o ancora i frigoriferi che variano i tempi di raffreddamento in base alle abitudini della casa riconosciute. Quindi sono super perché sono multifunzionali, fanno più cose, appunto come i cellulari con cui si telefona, si fanno fotografie, si sente musica, si naviga, si mandano mail, si guarda la TV, ultimo tra l'altro device a cedere a questa cosiddetta convergenza, la macchina fotografica, che appunto è diventata anch'essa multifunzione, forse un giorno telefonerà anch'essa e grazie a un GPS interno può geotaggare, cioè georeferenziare le foto appena scattate al punto geografico corrispondente. Nel quotidiano più spiccio abbiamo il soffione della doccia che, oltre a erogare acqua, ne conta i litri usati per ogni doccia e ce li comunica, oppure i mobili con superfici che ricaricano il cellulare che si appoggia, quindi senza fili, senza prese, e sono i finlandesi di Power Kiss che hanno disegnato questa prima linea di tavoli che già si trovano al caffè Alvar Aalto dell'aeroporto di Helsinki. Dunque i super prodotti sono super anche perché non sono solo multifunzione, ma anche perché si sanno trasformare in qualcos'altro, e questa trasformazione può essere fisica, come le vetrine dei negozi che diventano dei visori, cioè degli schermi touchscreen su cui evidenziare, vedere, selezionare e anche comprare abiti e accessori quando il negozio è chiuso, come è il caso delle vetrine dei negozi di Ralph Lauren, per esempio, o, per stare su oggetti anche più comuni, gli impermeabili del marchio Jackpack, che diventano un sacco a pelo ma anche una tenda e poi si ripiegano e diventano una comoda borsa. La trasformazione può essere anche immateriale, quindi abbiamo le tastiere che diventano, che scompaiono, che diventano solo dei segni visualizzati se e quando servono, oppure gli interruttori elettrici, le prese di casa che diventano delle bollette in tempo reale, cioè punti luce che visualizzano l'andamento dei consumi energetici, e in questo caso lo smart object diventa un servizio, quindi si smaterializza e addirittura può diventare un'applicazione se queste informazioni le vogliamo vedere non solo in casa ma anche sul device portatile, per esempio il cellulare che abbiamo sempre con noi. Allora, i super prodotti si potrebbero chiamare oggetti aumentati, sempre usando la dicitura augmented reality di Bruce Sterling, cioè sono oggetti fisici, prodotti merci che incorporano tutte le potenzialità del digitale, quindi le connessioni con il mondo online, e diventano molto più che se stessi. In questo caso non parliamo in termini simbolici o per l'immaginario di cui sono carichi, ma proprio alla lettera, cioè vanno oltre il proprio confine. Un esempio per capirci sono i memory glasses, cioè gli occhiali sulle cui lenti leggere le informazioni che ci servono. Questo prodotto è già in dotazione dei meccanici BMW nelle officine di riparazione. Bene, i meccanici guardano il pezzo da riparare e leggono le istruzioni, per così dire, sulla lente dell'occhiale, quindi vedono il cacciavite che va nel tal punto, gli oggetti disegnati, gli attrezzi eccetera, e i movimenti simulati da seguire. Sono già moltissimi quindi i prodotti super, quelli con i superpoteri in commercio, però sono ancora di più quelli possibili, viste le sperimentazioni in corso, dalle reti neurali alla logica a fasi, all'apprendimento dal contesto, alle biotecnologie eccetera. Di questo rende conto benissimo Vito Di Bari nel suo libro molto famoso Il futuro che già c'è ma ancora non lo sappiamo, in cui fa moltissimi esempi, tra cui i tessuti diagnostici detector che si illuminano quando mancano elementi al nostro corpo come vitamine eccetera, e ce lo segnalano potendo anche rilasciare le sostanze medicinali e curative, oppure le scarpe con i sensori che ci guidano alla meta grazie a un microchip che via satellite consulta le mappe app per noi e traccia il percorso con delle vibrazioni, ci guida avanti e indietro, destra e sinistra. Oggi l'innovazione tecnologica rivoluziona anche l'alta gastronomia, tanto che si parla addirittura di techno chef, ma rivoluziona soprattutto gli alimenti che grazie alla ricerca diventano funzionali. Gli alimenti funzionali sono alimenti che grazie all'aggiunta di determinati componenti come antiossidanti, omega 3, probiotici e fibre, esercitano proprietà benefiche sulla salute. Sono alimenti tradizionali arricchiti, niente a che fare con pillole o capsule. Abbassano il colesterolo, nutrono la pelle, aumentano le difese dell'organismo. Gli alimenti funzionali sono i protagonisti dello scenario alimentare del terzo millennio, cresciuti con tassi esponenziali negli ultimi anni. Molto dibattuto il tema della legislazione sulla loro definizione, etichettatura e commercializzazione, nonché quello dei riscontri scientifici delle loro proprietà benefiche. Recentemente l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, ha bocciato l'80% degli health claims, le diciture salutistiche presenti sulle confezioni dei prodotti. Patrizia, la deriva del fenomeno, lo abbiamo appena sentito nella scheda, è simile in qualche modo al greenwashing, la spennellata verde sui prodotti che di sostenibile in realtà hanno poco. In questo caso si tratta di una spolverata solo di immagine, appunto, di funzionalità ed effetti salutistici, è così? Sì, sì, è un paragone che tiene. L'uso di pubblicità ingannevoli, che è il termine tecnico che si usa, nel senso che portano fuori strada, proprio alla lettera, il consumatore promettendo effetti inattendibili, è non solo discutibile ma appunto perseguita dalle autorità preposte, anche perché sappiamo quanto la pubblicità rimanga un fattore chiave per orientare gli acquisti dei consumatori, e come appunto per il concetto di sostenibilità anche funzionalità è usato in comunicazione in maniera strumentale per intercettare la nuova e crescente domanda alimentare proprio di salute e di benessere, cioè di cibi funzionali, questi che abbiamo sentito descrivere come curativi delle intolleranze, che rinforzano, eccetera. Quindi questa domanda c'è ed è forte, ed è la domanda di un consumatore che però, ahimè, deve sapersi districare tra etichette, informazioni pubblicitarie, controcomunicazioni circolanti, soprattutto online, recensioni sui prodotti di altri consumatori, eccetera. Quindi all'aumentare del livello informativo, se non corretto, aumenta anche la confusione e, diciamo, il relativismo nutrizionale dei consumatori, che però sappiamo bene essere sempre più intelligenti, forse più della pubblicità che ancora non li considera tali. Quindi lasciando il cibo, che abbiamo visto può diventare super cibo in termini organolettici, vediamo il caso di invece oggetti inanimati, non organici, che possono diventare super e essere definiti tali non perché sono multifunzionali, non perché all'interno hanno dei chip, ma come nel caso dei filtri per sigarette Green Buds, che significa appunto filtro verde, contengono del cotone, del materiale organico combinato con sementi varie, e quindi si può trasformare questo microoggetto, il filtro, e cambiare di segno, smettere di essere un oggetto inquinante oltre che brutto, cioè il mozzicone che infesta spiagge, marciapiedi, strade, qualsiasi luogo aperto pubblico, e diventa una piccola bomba di semi, quindi fa spuntare fiori, erba, eccetera, se gettata su un terreno accogliente e comunque per strada è biodegradabile. Quindi se proprio si vuole fumare si potrebbe tentare la via di questi filtri. Chiudo con l'esempio di un super prodotto ad altissimo valore socioculturale, e la lavagna multimediale interattiva già installata nelle aule di quasi tutte le scuole inglesi e pare, speriamo, in distribuzione progressiva anche in Italia. È a forma di lavagna, è un computer in tutto e per tutto, quindi con il grande potenziale come fonte nozionistica della consultazione online in tempo reale di dizionari, antologie, testi, eccetera. Lo schermo su cui si scrive in verticale, proprio come una lavagna, è molto ampio, si usa un gesto penna, si può disegnare, eccetera, scrivere la lezione, archiviare tutti i documenti prodotti, che possono essere anche filmati, ripresi e per esempio la lezione spedita agli assenti via mail come video. Si possono usare i videogiochi educativi e quindi applicare il concetto di divertimento a supporto dell'apprendimento, eccetera. Quindi i super prodotti ci sono intorno a noi, disponibili, si tratta solo di usarli per i giusti obiettivi. Cosa c'è di nuovo a Cosa c'è di nuovo a New York su Super Prodotti e dintorni? È il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Bentornata Alessia. Grazie, un saluto a tutti. Non poteva che essere a Brooklyn, precisamente in Park Slope, il negozio di super prodotti per eccellenza. È il Brooklyn Superhero Supply Company. Qui si può acquistare tutto il necessario per diventare supereroi. Ma sul serio, e sto parlando di chili di antimateria, galloni di onnipotenza, porzioni di intelligenza, lattine di antigravità, spray di invisibilità, oltre a tutti i possibili kit anticrimine, dalle valigette cambi identità ai mantelli per svolazzare in cielo, con tanto di website per gli acquisti online. Manco a dirlo, la grafica e il packaging dei prodotti sono raffinatissimi e accurati, con quell'aura vagamente retro che accomuna tutte le creazioni di quel genio di inventiva che è Dave Eggers, nato come enfant terrible della narrativa americana e diventato ideatore di riviste letterarie e web TV di culto. Il negozio è una sua idea, ma che idea? Infatti l'attività commerciale è solo un pretesto, un accattivante front store che al suo interno cela una vera e propria scuola di scrittura creativa, la 826 New York City, un'associazione no profit creata dallo stesso Eggers e che si finanzia così. Di cosa si tratta in pratica? Di una super operazione di project financing. C'è dentro l'innovazione, l'ironia, l'etica e il business. Un progetto che si ripaga per uno scopo molto nobile, aiutare giovani studenti a migliorare la loro scrittura. Grazie Alessia. Patrizia, questa tendenza è a rischio esasperazione? Si può cadere nell'ipertecnologia, una tecnologia in qualche modo superflua? Sì, c'è il rischio di quella che si può definire ipertelia tecnologica, cioè la capacità d'uso delle persone che rimane molto inferiore al potenziale espresso dalla tecnologia. Spesso la tecnologia sviluppa oggetti che, come certi arti o pinne del mondo animale, nelle varie fasi evolutive ci sono, ma rimangono inutilizzati e inutili. In questo momento in cui l'imperativo è la convergenza, ogni device, telefono, TV, navigatore, computer, eccetera, fa più o meno tante cose e le stesse degli altri. Però già l'iPad fa intuire forse una controtendenza dalle domande fatte a chi lo sta aspettando o ce l'ha. E sono domande che si sentono e sono: ma si possono fare solo queste poche cose, ma quindi si può solo leggere e usare i social network? Quindi se Steve Jobs non ha fatto un super prodotto per come lo stiamo intendendo in questa puntata, ma oggi, forse un motivo ci sarà, e come sempre sarà l'uso degli utenti a stabilire che cosa è utile, che cosa è inutile, che cosa sopravviverà e che cosa soccomberà, e se la direzione sarà la convergenza o la divergenza delle funzioni. Resta solo il tempo per ricordarvi il nostro indirizzo, essereavere@radio24.it, il sito radio24.it, dove potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate di Essere Avere, e darvi appuntamento come sempre a domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.